24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In apertura la giornata pesante sui listini del vecchio continente, sui quali è inciso anche la difficile situazione spagnola. Venerdì 13 sul calendario, venerdì nero sui listini europei. Le tensioni sulla Spagna hanno continuato a farsi sentire anche ieri sui mercati, che hanno chiuso con cali fra il 2 e il 3%. Se Madrid ha ceduto il 3,6%, a Milano il FTSE MIB ha fatto segnare un meno 3,4%, che ha portato il bilancio settimanale un passivo di quasi 6 punti percentuali. Le vendite hanno colpito in modo particolare le banche, mentre gli operatori si interrogano sul fatto che il programma della BCE per prestiti agevolati a 3 anni per le banche potrebbe già aver esaurito il suo effetto. Sotto tiro sono così finiti gli istituti di credito italiani. BPM ha ceduto l'8,2%, UBI il 6,6%, Unicredit il 6%, e Intesa San Paolo il 4,8%. Fra i pochi titoli in controtendenza Finmeccanica, più 2,6%, mentre si avvicina la cessione della controllata Ansaldo Breda ai giapponesi di Hitachi Rail, gli stessi che entreranno anche in Ansaldo STS. Guido Maurino, da Radio Corp, Radio 24, il Sole 24 Ore. Lo spread tra i BTP e il Bund è tornato a salire, oscillando intorno ai 388 punti. Sorvegliata speciale, come avete sentito, è ancora la Spagna. Lo spread bonus Bund è a 426 punti, con i titoli a 10 anni al 5,93%. Intanto il debito delle banche spagnole nei confronti della BCE ha segnato ieri un nuovo massimo storico, 227,6 miliardi di euro, contro il picco di 152,4 miliardi toccato in febbraio. E di spread e di crescita è tornato a parlare il ministro dello sviluppo economico italiano Corrado Passera, sentiamo. La riforma non c'entra, i mercati non sono delusi dalle nuove norme sul mercato del lavoro. Per il ministro dello sviluppo economico Passera non c'è nessuna connessione tra la crescita dello spread e un presunto indebolimento della riforma. Le ragioni sono da ricercare altrove. Le due cose fondamentali si chiamano Germania e Spagna, si sono aggiunti dati americani e cinesi non buoni, che però di per sé non avrebbero cambiato l'umore. Dobbiamo fare in modo che l'Europa fino in fondo faccia la scelta di garantire se stessa. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Dati negativi dalla Cina, si diceva, per la precisione il tasso di crescita di Pechino è stato dell'8,1% nel primo trimestre, il più basso dal 2009. Secondo gli analisti, la crescita dei consumi interni non riesce a compensare il calo delle esportazioni dovuto al rallentamento della domanda in Europa e Stati Uniti. Sta gradualmente perdendo la velocità la Cina, quella che le aveva permesso di conoscere negli ultimi 20 anni la crescita economica più forte mai vista nella storia. Nel primo trimestre del 2012 il tasso di crescita del paese del dragone è stato dell'8,1%, il più basso dal 2009, secondo dati diffusi proprio dal governo di Pechino. Però si tratta del quinto trimestre consecutivo di rallentamento della crescita cinese. Il prodotto interno lordo del paese aveva già fatto segnare una crescita infrenata dell'8,9% nell'ultimo trimestre del 2011. Mentre, considerando tutto il 2011, la crescita è stata del 9,2% rispetto al 10,4% del 2010. Secondo gli analisti, l'aumento del consumo interno non è sufficientemente elevato per compensare il calo delle esportazioni dovuto al rallentamento della domanda sui principali mercati delle imprese cinesi, e cioè l'Europa e gli Stati Uniti. Inoltre, l'economia cinese sta subendo un doppio colpo, perché si aggiunge l'indebolimento del settore immobiliare, che finora è stato uno dei principali locomotori della crescita. Anna Marino, Radio 24, il Sole 24 Ore. I ministri degli esteri del G8, di cui fanno parte anche Germania, Francia, Regno Unito e Italia, hanno condannato il lancio del missile della Corea del Nord che mina la pace e la stabilità regionale. È rimasto in volo poco più di un minuto prima di andare a pezzi e cadere in mare. È finito così il lancio di un razzo nordcoreano che, secondo il governo comunista, doveva portare in orbita un satellite, mentre per la comunità internazionale era un test missilistico. Non è la prima volta che la Corea del Nord tenta questa impresa. Lo aveva già fatto senza riuscirci nel 98 e nel 2009. Questa volta però, a differenza delle altre, ha ammesso il fallimento. Un atto provocatorio, lo definisce la Casa Bianca, che minaccia la sicurezza della regione. E anche i paesi del G8 riuniti a Washington hanno condannato il lancio. Il segretario generale Ban Ki-moon ha già definito il lancio deplorevole, sottolineando come violi direttamente una risoluzione delle Nazioni Unite. La Russia, la Cina e l'India hanno lanciato un appello a dar prova di massima responsabilità e moderazione. Mosca si è già detta contraria a nuove eventuali sanzioni. Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore. Andiamo in Birmania. Aung San Suu Kyi centra il primo obiettivo. La neoparlamentare del Myanmar, leader dell'opposizione al regime militare, ha ottenuto dal premier britannico David Cameron un impegno per la revoca delle sanzioni economiche imposte al paese. Era dal 1962 che un capo di un governo occidentale non si recava in Myanmar e questa prima visita arriva a 10 giorni dalla riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea che sancirà l'alleggerimento delle sanzioni. Ora in Germania, 3 morti e 13 feriti nell'incidente ferroviario avvenuto nel land tedesco dell'Assia intorno all'1 di notte. Un treno regionale con circa 35 passeggeri si è scontrato con uno scavatore che si trovava sui binari ed è deragliato. A perdere la vita sono stati il macchinista e 2 dipendenti della ditta di costruzioni che stavano manovrando lo scavatore. Una pubblicità anti-gay sugli autobus di Londra ha fatto arrabbiare il sindaco. Londra è una delle città più tolleranti al mondo, non tollera l'intolleranza. Così il sindaco conservatore Boris Johnson ha bloccato una pubblicità offensiva per gli omosessuali. Lo slogan Not gay, ex-gay, post-gay and proud, get over it suggeriva agli omosessuali di poter guarire e tornare ad essere eterosessuali. 2 giorni prima che le locandine omofobe finissero su tutti gli autobus della città, Johnson ha però contattato il Guardian per annunciare che il progetto sarebbe stato immediatamente fermato. Il gruppo anglicano che ha organizzato la campagna ha detto però che l'azienda dei trasporti della capitale britannica, presieduta dal primo cittadino, aveva in un primo tempo dato il via libera alla pubblicità e il tema è diventato l'ago della bilancia per le prossime elezioni comunali a maggio. Sia Johnson che il suo principale rivale Ken Lee Livingston sono entrambi contrari alla campagna anti-gay, casomai litigano su quando la campagna avrebbe dovuto essere fermata. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per un regista, girare in una città come Roma è un dono perché, a differenza di altre città europee, è davvero un luogo esotico per noi americani. Così Woody Allen ha commentato durante una affollatissima conferenza stampa accanto a Roberto Benigni, Alec Baldwin e Penelope Cruz l'avventura che lo ha portato a girare To Rome With Love, film che uscirà nelle sale il 20 aprile. Nel cast anche molti attori italiani, da Scamarcio, Albanese ad Ornella Muti. Sentiamo Woody Allen in conferenza stampa. What's impressive about Rome, I mean, obviously it's like no other city. When I first came to Europe, quello che colpisce di Roma è ovviamente non c'è nessun'altra città al mondo come Roma. La prima volta che sono venuto in Europa negli anni 60, e questo credo che valga per gli americani, la prima volta che un americano si rende conto e capisce effettivamente di essere in Europa, di essere in un altro continente, è quando viene a Roma, perché Roma è all'occhio americano e in base agli standard americani è veramente la città esotica. Così diversa, non così per Londra, Parigi o anche in parte Madrid, perché tu queste città le capisci, mentre Roma no, Roma è completamente diversa, quindi Roma è un qualche cosa che tu non hai mai visto prima, che non hai mai vissuto prima, è uno stile di vita completamente diverso, da un punto di vista visivo, da un punto di vista dei colori, è estremamente diversa, è particolarmente esotica, quindi per un regista poter girare un film a Roma è veramente una chicca, è veramente un regalo, un dono, una festa. Per quello che riguarda il prossimo film, un pezzettino verrà girato a New York City e il resto verrà girato a San Francisco. A Fiera Milano City a Milano apre oggi al pubblico, fino a domenica, MiArt 2012, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea, giunta alla sua 17ª edizione. Quest'anno sono 92 le gallerie presenti, dall'Italia ma anche da città come Berlino, Londra, Amburgo, Bruxelles, New York, in rappresentanza di 501 artisti italiani e stranieri. Una delle curatrici di MiArt, Donatella Volontè, al microfono di Adriana Fracchia. Le novità sono diverse. La prima è l'aver deciso, attraverso appunto la direzione di Frank Boehm, di unire moderno e contemporaneo. Questo significa che il visitatore percorre gli stand e si trova maestri storici del primo Novecento affiancati o frontali ad un giovane emergente, nuova promessa, nel tentativo veramente di far vedere al pubblico anche più generico la continuità e il rimando fra arte storica e contemporaneità. L'altra grande novità di questa edizione, visibile a chiunque, è l'incredibile quantità di scultura. Normalmente in una fiera non si vede scultura, dei costi incredibili di mobilitazione e di allestimento. Qua si vede tanta scultura, anni 60-70, da Pomodoro alla Nevelson a Piacentino, a maestri più recenti, fino anche qua alla sperimentazione. E poi altra cosa che invece è la nuova tendenza